fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Buonasera di nuovo, bentornati, venerdì 1 giugno del 2018, Resto Radio Convento, la web radio del convento di Nonato del Garda, e come sapete il nostro motto è per raccontarsi, per raccontare, insieme ai festeggiati, insieme a tutti coloro che passano con noi la serata. E abbiamo, signore e signori, colei che sta sicuramente colorando il nostro locale con il suo vestito elegante, che in questo momento si confonde un po' con tutto il resto perché il colore della nostra radio è rosso e lei è rossissima. Non so se chiamarla la diavoletta, non so se chiamarla, non lo so, decidiamo dopo. Diciamo che è un po' un rosso rubino qui che splende. Un rosso rubino. È stata proprio colpa mia. No, non hai scelto. Non no, hai. No. Ti è stato imp... Diciamo che è stata un po' un attimino messa. Imposto o regalato? No, regalato. Ah, regalato, dai, dai, almeno è stato un gesto carino. Poi, insomma, non è comunque un vestito che ti, come dire, che ti mette in difficoltà, un vestito che ti dona e. O no? Grazie ragazzi, è tutto un pezzo. E infatti, è porca vacca, è un cioè... Sta facendo brillare questo. Madonna, momento. Sta facendo brillare assolutamente, poi accompagnata da degli angeli in bianco. Esatto. Che la scortano come dei veri e propri protettori, come è giusto che debba essere. Gli angeli non possono far altro che questo, no? Giusto, eh sì. Allora intanto la presentiamo, Stefania, benvenuta. Ciao, piacere. Da dove, Stefania? Da Brescia. E sappiamo che ti devi o dovrai sposare, giusto? Mi devo. Quando? Dici il un po'. 10 giugno. Quindi a brevissimo. A brevissimo. Come si chiama il fortunato o lo sfortunato? Non lo so, magari. Fortunato. Dici di sì. Allora facciamo così, di solito si dice il contrario, cioè le qualità della persona amata. Facciamo un gioco al contrario. Come mai Mirko deve ritenersi fortunato a sposarti? Perché vediamo ha trovato un po'. Me. Vai, avanti. Perché ha trovato te? Cos'hai in più di tutte le altre? Perché sono bella, intelligente, interessante. Bene, brava. No, perché sono dolcissima. È giusto, guarda che è giusto esprimersi in questo modo. Perché sono innamorata. L'amore è bellissimo, sì. E quindi diciamo che questo tuo sentimento traspare così tanto che lui non può far altro che lasciarsi travolgere. Sì. Da quanto vi conoscete? Da 3 anni ormai. Beh, ormai, neanche tantissimo alla fine. Per cui... Diciamo che ho un matrimonio a un tempo onesto, ma anche abbastanza un tempo lampo, no? Diciamo che 3 anni è sempre quel periodo in cui dici sì, un po', ma nemmeno troppo. Cioè, è un lì. Allora cerchiamo di capire meglio chi ha deciso di fare questo grande passo. Io. Vabbè. No, non avevo dubbi. Lo si sa, no? Esatto. Le donne quando decidono, chissà perché, convincono gli uomini a decidere. Assolutamente. Questa è la legge. No, dai, tutte e due. Ne avete parlato, chiacchierato? Sì, ne abbiamo parlato e poi alla fine ho deciso che si sposava. Vedi. No, scherzo. No, entrambe. Beh, la proposta com'è andata? Se c'è stata, se si fa ancora? Non c'è stata la proposta, lo voglio dire a tutti. Dai, denuncia, questo è anche un luogo di denuncia. Ragazzi, insomma, mancano 10 giorni esatti a questo matrimonio, insomma, facciamo qualcosa per questo. Fatela fare, no, mancano 10 giorni, fatti fare sta proposta. Fammi la proposta. Mirko Mattia, se ci stai ascoltando o comunque ci ascolterai perché potrà farlo. E lo indurremo anche certo, a farlo. Certo, come è giusto che sia. Mirko, fai questa proposta alla mia cara Stefania, perché il 10 di giugno manca veramente poco. Ti aspettiamo Mirko in questo locale. Okay. Sì, anche se vuole fare la proposta qui, noi siamo prontissimi. Al convento diciamo che è la cosa più assoluta da fare, più no? Adatta. Sì. Io voglio cercare un remember per te, no Stefania? Addirittura. Quindi ti aspettiamo. Un remember, come mai? Perché è il suo addio. Ah, perché credevo fossi già venuta. No, perché è già stata qui, quindi è giusto che succeda qui. Che sia un remember per lei. Certo. Per la proposta. Volevo conoscerti un attimo meglio, sei una tipa da proposta eclatante o più intima, una cosa più tranquilla? No, romantica. Più romantica. E sei una materiale, cioè che ha bisogno, non lo so, del pensiero, del gesto, del regalo, oppure... Cioè come ti piacerebbe, perché è brutto, però come te la immagineresti una proposta? Come nel nelle favole, visto che la nostra canzone preferita è Come nelle favole di Vasco Rossi, è di cose speciali nella vita, ce ne sono poche, la vorrei proprio speciale. Beh, anche momenti speciali nella vita da ricordare ce ne sono pochi, magari questo potrebbe essere uno di quelli almeno nei primi 5 della lista. Quindi se mi ascolti ti aspetto. Non vuoi dare se qualche... Se vuoi che mi presento. Mamma, comincia a ricattare. Quando comincia a ricattare la Stefania diventa pericolosa. Ma che il 10 è giugno... È una minaccia. È una minaccia, è una minaccia. Il 10 giugno è vicino. È vicinissimo, certo che sì. Ragazzi, attenzione, bada. L'alcol sta facendo effetto dal 10 giugno all'11 giugno. Sì, è pericoloso. E no, volevo dire, vuoi dare qualche suggerimento o vuoi lasciare che faccia lui? No, lasciamo che faccia tutto lui perché... Attenzione Mirko, spero che ti ricordi di me, sono nata. Fallo bene. Fallo bene. Mi raccomando. Ah, fallo bene, fallo bene. Tra l'altro giusto, non abbiamo presentato, non so se è tua amica o non so cosa. È la fidanzata di mio fratello. Ah, attenzione, la fidanzata di tuo fratello. Prossima moglie. Prossima moglie. No, prossima moglie, attenzione. Tu hai già ricevuto la proposta? Allora, la una mezza, una... No, però ormai... Diciamo che... Michele, aspettiamo anche te per la proposta. Sai, quando ti si mette Nadia, in gabbia, giusto? Nadia, sì. Diciamo che Nadia ha ricevuto la pro, sta aspettando la posta. Cioè, giusto. È a metà, è ragazzi, lì. Tutte le mattine quando vado ad aprire il negozio io guardo sempre la posta, aspettando che aspettando che arrivi. La francobollata, la pergamena. E anche questo è un altro... Quindi stiamo praticamente lanciando dei massi, non dei sassi, perché... Speriamo che li prenda. Esatto, qualcuno li ascolti, li senta. Ragazzi, e mi recepisca. Raccomando, non accettate mai i sassi, ma ci siano diamanti, giusto? No? Giusto. Ma, vabbè, approfitta dello spazio, giustamente, Nadia, per cercare di portarsi intanto a casa. Per ragazzi, portarsi a casa. Qualcosa di importante e interessante. Beh, direi che abbiamo detto parecchie cose che rimarranno, lasceranno il segno, diciamo così. Non siete sole, mi sembra anche giusto ricordare chi c'è con voi qui. No, erano qui fuori. Poi abbiamo tante nostre donzelle, sì. Le nostre bambine le chiamiamo. Addirittura, no? Sì, addirittura. Le più grandi, no? Sì, ok. Sono un po' le sue sorelle, un po' le nostre amiche. Dai, diteci un po' chi c'è, che sono allora, anche qui fuori. Allora, noi salutiamo tanto calorosamente la Francesca. Sì, la Francesca è la sorella. C'è okay. Un'altra sorella. La sorella sì. Alessia. E poi la Giorgia. Giorgia. Che sono praticamente quelle che ci accompagneranno fino alla fine, no? Sì, assolutamente, sì. Saranno le nostre damigelle. Insomma, si parla del nostro, diciamo, nostro giorno. Esatto. Sì. Beh, poi già diciamo che se vi vedo così stasera, che comunque è una festa, ma siete tutte organizzate di tutto punto, perché come dicevo, le amiche, gli angeli tutti in bianco e lei in rosso, quindi anche il contrasto cromatico è esemplare. Non voglio immaginare cosa vi siete organizzate per sai, le nozze. È molto difficile, no, tra donne essere molto unite, no? Sì, è vero. Un po' strambe, no? Sì. Nel nostro complesso. E siamo molto unite, credo, tra tutti i disapprovi e quant'altro, come vabbè, ci possono essere. Come in ogni rapporto? Normalmente in ogni rapporto siamo molto unite e volevamo che questa serata fosse l'esemplare per tutte quante. Infatti, ripeto, non voglio immaginare come vi siete organizzate, cosa state pensando. Possiamo dire la verità, sì, che sono organizzata due giorni fa, però. Vabbè, ma guarda che le cose, come si dice, le cose migliori sono quelle che non si pensano troppo. Improvvisate. E no? Poi alla fine è anche un talento riuscire a organizzare una cosa e farla bene in pochissimo tempo. Perché... Speriamo. Sì, no, ci sta. Guarda, questo è il tuo matrimonio, tra poco accade. Sarà speciale. Cosa vuoi di più? Hai tutte le tue persone accanto che ti vogliono bene qui attorno a te. Siamo certi che sarà così. Allora, grazie mille Stefania, grazie mille grazie Nadia, in rappresentanza di tutte le altre, e in bocca al lupo e credi. Speriamo che la nostra parola, il nostro verbo arrivi alle persone. Ecco, mi raccomando. Faccia centro e arrivi alle persone che dovevano ascoltare. Assolutamente. Noi abbiamo fatto il nostro dovere. E poi vediamo come andrà. L'amore è quello che comunque coinciglia tutti i sentimenti di questo mondo. Abbiate coraggio e amate. Mamma mia, cosa vuoi dire? Dopo una frase del genere non puoi dire nient'altro. Grazie mille, ragazze. Allora, buon divertimento. Ciao. Grazie, ciao.